Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, belle vestite da marinarette, pronte con la prima trasferta di Cuore e Denari dopo le vacanze estive. Alla prima, giusto? Non è che me ne dimentico qualcuna. Siamo a Genova, dove, come sapete, proprio ieri si è aperta la 56esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Quest'anno ci sono 800 espositori, 1000 le imbarcazioni su 180.000 metri quadrati di superficie, di cui 100.000 in acqua. Chissà se ho dato dei numeri a caso, erano quelli ufficiali, quindi tutto corretto. Questo è un molto importante per l'economia italiana, un comparto che peraltro è in ripresa, anche lui ha avuto i suoi anni di difficoltà, sì, e di crisi. Il fatturato globale del settore nautico nel 2015 è stato di quasi 3 miliardi e questa è una manifestazione molto interessante, dove si può vivere il mare proprio a 360 gradi. Oggi per fortuna anche le condizioni meteo ci accompagnano, ci sono prove in acqua, eventi sportivi, incontri con campioni, ma anche con conduttrici radiofoniche. Quindi se volete venirci a trovare lo state già facendo, abbiamo fatto tanti selfie, sì, esatto, molti abbracci, baci, abbiamo cantato, molti fan per fortuna, insomma nella nautica andiamo forte, direi che sguazziamo. Eccoci qua. E parleremo anche di appuntamenti per gli amanti degli sport acquatici. Infatti ci sono appuntamenti dedicati al nuoto, alla subacquea, al canottaggio, al windsurf e alla canoa. E noi eccelliamo naturalmente in tutte queste discipline. Naturalmente, io col canotto vado alla grande. Fatta paperella. Sul surf, esatto, sulla zattera. Allora, dato che parleremo anche di sport acquatici, oltre che naturalmente del piacere di andare per mare, dal gozzo a quelle magnifiche barche che stiamo vedendo, Mamma mia. Ci hanno fatto sognare. Design e tecnologia sono eccezionali per quello che riguarda l'Italia. Dato che io mi occupo di salute, voglio sempre avvertirvi, raccomandarvi, insomma in qualche modo tutelarvi. Mi è venuta sott'occhio una ricerca pubblicata da Optometry che parla dell'uso che solitamente fanno gli sportivi, delle lenti a contatto, quindi persone che hanno dei difetti visivi che correggono con gli occhiali e che praticando sport per avere le mani libere utilizzano le lenti a contatto. Restate con noi perché siamo rimandati sull'uso delle lenti a contatto. Anche tu le usi quando in palestra, soprattutto. Adesso poi ti interrogo, faccio venire il mio professore esperto. Devo ripassare. Ma naturalmente parleremo anche di chi non ha problemi con le lenti a contatto né con gli occhiali, perché sta cambiando la luce e questo potrebbe essere un test per la salute. Benissimo. Della nostra vista. Per quello che riguarda i denari invece, nella seconda parte della trasmissione andremo ad esplorare proprio il mondo del settore nautico, ci chiederemo quali sono i costi, le incombenze, le informazioni da conoscere per chi ha questa passione o vorrebbe avvicinarsi magari all'acquisto di una barca, di un motoscafo, di un kayak. Quanto costa acquistare e mantenere un'imbarcazione? Voi avete mai accarezzato il sogno di averne una? Sono state proprio le questioni di denaro a frenarvi, oppure avete risparmiato tanto avendo in testa questo obiettivo? Ora siete arrivati al momento di scegliere, vi serve qualche ultima informazione in merito anche alle tasse, alle procedure assicurative, alle modalità di ormeggio, dove metto l'imbarcazione se la compro, mi devo noleggiare, affittare un garage apposito? Insomma, le questioni che si aprono sono tante, però noi col massimo rispetto in punta di portafoglio affronteremo anche questo tema. Per tutti questi argomenti, dalle lenti a contatto alla barca dei nostri sogni, quindi vi accompagniamo, esatto, proprio con il corredo necessario, esatto, e potete intervenire naturalmente più tardi all'800 24 00 24 oppure sbizzarrirvi con l'SMS o con WhatsApp al 349 238 6666. Partiamo con la nostra rassegna stampa. Oggi partiamo con la pagina di denari, perché dobbiamo monitorare questa mattina cosa succede in borsa dopo il calo di ieri molto consistente che ha riguardato soprattutto Milano. Oggi abbiamo un rimbalzo generale. Allora, ci sono due temi da riferirvi. Intanto le decisioni della Banca Centrale del Giappone, che questa mattina ha così un po' informato la comunità finanziaria sulle prossime mosse di politica monetaria. Nessun intervento sui tassi come nelle attese, ma la Banca del Giappone ha indicato quelli che sono i nuovi target della politica monetaria, non più il raggiungimento di un certo livello di inflazione, ma i tassi a lungo termine, per cui la Bank of Japan comprerà obbligazioni governative per fare in modo che i tassi dei titoli decennali rimangano al livello attuale, cioè intorno allo zero. Questo stamattina ha fatto guadagnare circa 2 punti alla borsa giapponese, sta spingendo anche l'Europa, il tutto in attesa invece delle decisioni che stasera comunicherà Janet Yellen in merito alla politica monetaria. monetaria statunitense, quindi banca centrale americana. A Piazza Affari rimbalzano in maniera vistosa tutti i titoli bancari: Banco Popolare più 4,65, Pop Milano più 4,14, Ubibanca più 4,13, Pop Emilia Romagna più 4, Unicredit più 3,4%, c'è questa short list tra i soggetti candidati all'acquisizione della società del risparmio gestito che Unicredit controlla, che è Pioneer. E poi abbiamo un mini rimbalzo per Monte dei Paschi, quasi 3 punti di rialzo. È un mini rimbalzo se consideriamo i cali di cui è stata protagonista nelle ultime sedute. Ma se ci sono novità in casa Monte dei Paschi, stamattina lo chiediamo al collega del Sole 24 Ore, Luca Davi, che saluto. Luca, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Ci sei con noi. Allora, le ultime notizie in casa Monte dei Paschi. Dunque, ieri grande preoccupazione soprattutto per la notizia che proprio il Sole 24 Ore aveva pubblicato di questo presunto rinvio della presentazione dell'attesissimo piano industriale che dovrà portare la firma del neo amministratore delegato Marco Morelli. Allora, il mercato che cosa chiede in questo momento alla banca? Certezza sulla cessione delle sofferenze, sull'aumento di capitale, su questo piano industriale? Perché ricordiamo che ieri il titolo è scivolato ai suoi minimi storici, ancora una volta intorno ai 18 centesimi. Luca, le notizie del giorno. Assolutamente sì, perché MPS è caduta sotto la soglia psicologica dei 20 centesimi, quota sostanzialmente capitalizza circa 500 milioni, ovvero un decimo di quello che viene richiesto al mercato per varare l'aumento di capitale, cioè 5 miliardi. Troppo sostanzialmente, sì. Perché ovviamente gli investitori credano che questo possa essere davvero messo in pratica. C'è molto scetticismo tra gli investitori sul fatto che appunto l'aumento di capitale quindi possa andare in porto. È anche vero che la banca è stata protagonista di una svolta. Al vertice è arrivato il nuovo amministratore delegato Marco Morelli, che proprio questa settimana dovrebbe avere un incontro con il consorzio delle banche d'affari per rivedere un po' il perimetro e probabilmente anche trovare le soluzioni proprio per riuscire a portare a casa questo aumento di capitale che, ricordiamolo, è richiesto dalla Banca Centrale Europea per permettere sostanzialmente il deconsolidamento di oltre 9 miliardi di sofferenze nette dal bilancio. Ecco, su questo si gioca un po' la partita di MPS, perché rivedere il perimetro dell'aumento di capitale può comportare anzitutto una conversione in azioni dei bond subordinati, esatto, che sono in mano agli investitori istituzionali. I privati sono fuori nell'eventuale operazione, sono assolutamente fuori, sì. E questo, come dire, non è il tema in discussione. I privati nel senso di piccoli risparmiatori retail, perché ce ne sono anche in circolazione, sì. I piccoli risparmiatori non sono coinvolti in questo piano, lo sono invece gli investitori grandi fondi, gli investitori, le assicurazioni, insomma chi ha in mano i bond subordinati appunto di tipo istituzionale. Ricordiamo che ieri, ad esempio, vedremo oggi l'andamento, ma ieri il bond con scadenza 2020 ha registrato un picco del tasso di interesse al 19%, cioè è arrivato al massimo da gennaio scorso. Questo vuol dire sostanzialmente che il mercato dà per scontata sostanzialmente una conversione in azioni di questi strumenti. Ora invece si tratta di capire cosa accadrà invece anzitutto al piano industriale. Come abbiamo raccontato, Morelli si prende giustamente qualche settimana in più per rivedere, certo, le linee guida di questo piano. Che d'altronde essere... anche, scusami Luca se ti interrompo, c'è stata appunto molta sorpresa rispetto alla sua richiesta di rinvio di presentazione del piano, ma è anche arrivato 4 giorni fa questo manager, e vogliamo dargli anche il tempo un po' di visionare documenti e carte, anche se è un mondo, quello di Monte dei Paschi, che lui conosce molto bene essendo già stato un dirigente della banca. Però mi ha colpito anche molto questo fatto che ieri il gruppo sia stato letteralmente colpito dalle vendite, soprattutto per questo aspetto, ma mi sembra anche abbastanza ragionevole che gli si dia qualche settimana di lavoro da poter portare avanti. Assolutamente sì, ma infatti questo secondo me mostra più la fragilità di un mercato che è suscettibile a qualsiasi elemento e diciamo si appiglia a qualsiasi novità parziale, in fin dei conti, perché è anche di fatto attesa, per legittimare delle vendite che arrivano invece molto forti. C'è un forte flusso di cambi sul titolo, ma questo è sintomo probabilmente di uno scetticismo che c'è in generale nel medio periodo sulla banca. Scetticismo legittimo o meno, lo capiremo nelle prossime settimane. Un dato in più che probabilmente ha contribuito a creare ulteriore pressione sul titolo è stata anche l'indicazione arrivata dal componente italiano del board della vigilanza della BCE, Ignazio Angeloni, che in un'intervista ha sostanzialmente avvertito che nell'ambito della revisione delle asticelle patrimoniali, cosiddette SREP, delle asticelle patrimoniali delle banche a fine anno, potrebbero esserci delle revisioni per le banche più fragili. Questo ha alimentato ulteriori dubbi, ma è un, diciamo, un contesto di forte tensione che probabilmente potrebbe essere, e questo lo capiremo, potrebbe essere addolcito magari in virtù di novità positive che potrebbero arrivare dal consorzio. Diciamo che tutto il tema, il contesto MPS poi si lega anche inevitabilmente, si intreccia ai temi politici, perché l'aumento di capitale dovrà essere rimandato. C'è il tesoro che è azionista con il 4%, per cui è chiamato anche lui a dire la sua. A dire la sua e probabilmente anche, come dire, come abbiamo già raccontato, l'aumento di capitale dovrà slittare oltre il referendum costituzionale. Probabilmente andremo nel primo trimestre del nuovo anno, del 2017. Gli investitori chiedono sostanzialmente anche visibilità sulla stabilità politica, diciamo, del paese. E forse in questo senso bisogna attendere ancora. Luca, grazie molto per essere stato con noi. Ci aggiungo anche la ciliegina sulla torta: si parla anche di 5.000 nuovi esuberi necessari, appunto, insieme alla banca. Sì, sono le 10.45. Allora, Nicoletta, magari tutti i temi che affronteremo nelle prossime puntate di Cuore e Denari li annunciamo più tardi, dopo le 11, perché c'è un bel po' di argomenti che bollono in pentola. Per cui, traffico e a tra pochissimo. Cuore e denari. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando we can share a love divine. Oh, don't let me wait again. Un video che sta spolando in rete, sono un padre e un figlio che cantano in macchina. Deborah, quante volte abbiamo fatto delle cantate io e te? Anche adesso, 5 minuti fa con mia Martini, esatto. Allora, quindi, che cosa c'è di strano? Quanti di noi andando in macchina con amici, parenti, bambini hanno cantato a squarciagola? Beh, la cosa strana è bella, direi, è che questo papà e questo figlio cantano, ma hanno una particolarità: il papà, che si chiama Ted, ha 80 anni, è malato di Alzheimer, e il figlio Mac si è accorto che quando suo papà canta recupera la memoria, è come se la sua malattia temporaneamente lo abbandonasse. Allora, oggi che è la giornata mondiale dell'Alzheimer, ho pensato insieme a Deborah di partire da questa bella storia che racconta una realtà che si sta trasformando, l'altro lato della medaglia, e per aiutarci a farlo abbiamo con noi in linea un grande amico di Cuore Denari, Michela Farina, giornalista del Corriere della Sera, autore di Quando andiamo a casa, mia madre, il mio viaggio per comprendere l'Alzheimer. Ciao Michele. Sì, buongiorno a tutti. Ciao, grazie. Michele, un libro che io consiglio, abbiamo dedicato una puntata, l'abbiamo ripreso, perché è un libro davvero bellissimo, dedicato non solamente alle persone che hanno in casa un familiare con un problema di Alzheimer, ma proprio per avvicinarsi a una lettura anche diversa di questa malattia. Michele, un po' come fa questo video? Ma io questo video me lo sono rivisto 20 volte. È bello, È bello, le canzoni, insomma, tutte le persone che hanno, in qualche modo, conoscono l'Alzheimer, una forma di demenza, perché ci hanno vissuto, hanno avuto una persona cara accanto, sanno il potere meraviglioso della musica e delle canzoni. Io con mia madre cantavo, anche quando lei magari non ricordava più le parole delle canzoni, gorgheggiavamo così, e mi ricordo per me la felicità di mia madre è quella, quando lei canta così, a squarciagola, senza magari sapere. Poi Ted invece si ricorda le canzoni, perché è proprio così. La musica ha un potere di farti tornare. Quindi quando è veramente sublime. È una favola, sembra una favola meravigliosa, sembra unica, no? Sai, la serie 1 su 1000 ce la fa, e poi questo signore ha avuto un contratto da una casa discografica. Ecco, io credo che al di là della favola, io credo che è una favola che accade, può accadere ogni giorno, ogni momento, ogni istante. In Italia ci sono 1.200.000 persone con una forma di demenza, con 3.000.000+ di familiari, no? Questo video, questa storia, Ted e Simon, suo figlio, sono la prova che queste patologie, queste esperienze possono essere vissute. Chiaro, non è che si può cantare tutto il giorno, però ci sono tanti modi, no, per gioire, perché in fondo è questo, cioè il lato A, direi, dell'Alzheimer, no? Quello di cui parlavamo quando quando sì. parlavamo di questo video. Il lato A dell'Alzheimer, ed è in questo modo che vogliamo ricordare questa giornata. Tra l'altro, io ho letto anche un tuo bellissimo articolo, Michele, in cui parlavi delle città amiche. Citavi Abbiategrasso, che è un comune vicino a Milano, che fa parte di una rete, immagino, di città demenzia friendly community. Sì, la rete è una speranza, Abbiategrasso. Sì. Sai che io sono un ottimista, no? Hai ragione, no, ma è così. Macerata sta facendo qualcosa di analogo. L'idea è quella che le città diventino dei luoghi dove appunto le persone con una forma di demenza possono uscire, tornare a uscire, andare al mercato, andare in negozio, andare al bar. Questa malattia c'è la canzone, ma poi il lato B, che spesso è quello preponderante, è il lato del dolore, della vergogna, del non riusciamo più a fare le cose, quindi ci ritiriamo. Le case diventano a volte, malgrado, nonostante l'amore che c'è, che si respira, diventano delle prigioni, no? Perché intorno le persone l'ambiente non è preparato, non sa perché quella persona sta cambiando, ce l'ha con me, e quindi le persone si chiudono in casa, le famiglie si chiudono. Questo è veramente una cosa che non ti fa vivere, no? La vita normale è quella dove noi siamo, prendiamo le case come dei porti, no? Da qui vieni, tu torni, qui esci e vai. Allora la città demenza friendly, demenza friendly community, che è un concetto che sta prendendo piede in Europa e anche in Italia sta assistendo, è qualcosa che in qualche modo ha a che fare con tutta la città, è una sensibilizzazione, quindi deve toccare le scuole, deve toccare gli operatori, deve toccare i negozianti, gli uffici, no? In modo tale che comunque sia, quando le persone... È proprio la comunità che deve accettare, sì. Certo. Ma deve accettare anche il dono, perché non è solamente aiutare qualcuno, no? Ma è anche ricevere, perché se tu senti una persona che canta quando in giro sta piacere, giusto? Quindi è il simbolo di quante cose possono ancora dare le persone che hanno una forma di Alzheimer, non è che non sono più persone. E questo è un cambio di prospettiva che è un salto piccolo ma fondamentale, enorme ma possibile. Anche la ricerca, tu dici salto, un salto piccolo, la ricerca va avanti anche se con difficoltà, ma arrivano sempre dei nuovi dati e di ricerca parliamo con il professor Antonio Di Carlo, neurologo dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, torneremo a parlare approfonditamente di questo studio perché ci restano 2 minuti, volevo solamente proprio raccontare in breve di questo progetto molto ampio che ha dimostrato come nelle persone con un deficit cognitivo lieve la comparsa di difficoltà nell'esecuzione di attività quotidiane più complesse, mi spiego meglio, usare il telefono, fare acquisti, magari effettuare le pulizie domestiche, prendere un autobus, consente di predire lo sviluppo di una demenza con un anticipo di 8 anni, è un anticipo importante, professore. Sicuramente, diciamo che in tutto il mondo siamo, direi, alla quasi disperata ricerca di segnali che ci possano indicare quali sono le persone che hanno un aumento del rischio di sviluppare la demenza negli anni successivi. Questo, diciamo, è essenziale per individuare dei sottogruppi di soggetti che possiamo indirizzare a interventi di prevenzione, e questo nell'ottica ovviamente di ridurre i costi sociali ed umani di questa malattia. Questo studio va proprio in questa direzione. Noi abbiamo riscontrato appunto che l'alterazione nell'esecuzione delle attività quotidiane più complesse determina un aumento del rischio che noi siamo riusciti anche a quantificare. Questa è anche una delle novità di questo studio, cioè noi abbiamo visto che le persone che avevano una difficoltà in una sola di queste attività complesse avevano un aumento del rischio raddoppiato negli 8 anni successivi, mentre se le attività interessate erano più di 4, il rischio addirittura aumentava di 9 volte. Questo è molto importante proprio per individuare di sottogruppi di soggetti che sono a rischio e ancora non hanno sviluppato la demenza parecchi anni prima dell'evento, diciamo, ecco. Allora, professore, naturalmente questo è un dato molto interessante, immagino che abbia catturato sicuramente l'attenzione dei nostri ascoltatori. La invito, inviteremo anche Michele Farina e dedicheremo una puntata proprio ad hoc anche con le storie dei nostri ascoltatori. Intanto ringrazio Michele Farina per essere stato con noi, il professor Antonio Di Carlo, grazie, buona giornata. E noi andiamo a sentire che cosa ci racconta il nostro GR. Sono Giovanni Minoli e lunedì 26 settembre torno con Mix 24 con Mario Sechi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di Faccia a Faccia, le inchieste dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Cuore e denari. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio. Le sappiamo tutte, Deborah. Abbiamo iniziato con Minoli, esatto, e Mia Martini. Poi siamo passati quando esatto, l'intermezzo per l'Alzheimer e adesso dai. Love Boat. Chi non ha visto questa serie? Vogliamo almeno un episodio? Non esageriamo. Allora, dove siamo? Siamo al Salone Nautico di Genova, l'avete sentito anche dal lancio del nostro GR. Se volete venire a salutarci, ci trovate allo stand S. Sì. Perché proprio è? Perché ti ha messo qua? Perché il marketing li sceglie proprio per farti fare delle prove. Per fare un po' di logopedia. S35. Comunque si sta benissimo. C'è da che lustrarsi gli occhi. Mamma mia. E di occhi che brillano, come vi anticipavo, ma anche di occhi che lacrimano, si arrossano, di occhi che stropicciamo per avere un temporaneo sollievo. Parliamo oggi con il nostro ospite che finalmente è qui in carne e ossa. Siamo dovuti spostare noi per farlo arrivare qua. Buongiorno al professor Maurizio Rolando, professore associato di oftalmologia e direttore del Centro per la Ricerca Clinica e Sperimentale della Malattia della Superficie Oculare all'Università di Genova. Quindi lei deve praticamente assistere e occuparsi di tutti coloro che con i primi soli, il primo sole, alla prima esposizione solare, tac, si trovano subito gli occhi rossi, non li proteggono adeguatamente, quant'altro, perché è lì che lei questi sono i miei interessi e i miei pazienti, sì. Allora, di questo parleremo naturalmente, se avete l'occhio rosso, se vi sembra secco, se avete quel fastidio a stropicciarlo, se la vista un po' si appanna, perché oggi in questa splendida location in cui gli occhi brillano, come potevamo evitare di parlare di occhi, ma anche vogliamo parlare degli occhi dei nostri amici ascoltatori che praticano attività acquatiche, sportive, quindi che praticano il nuoto, la canoa, vanno in canoa, windsurf, perché nel salone ci sono anche degli appuntamenti dedicati a chi fa sport, quindi non solo imbarcazioni, ma anche proprio di chi ama il mare, ama proprio... E che fisici direi, anche posso fare questa giunta... Non fare questi pensieri, ti cancello subito questo pensierino. Non è molto professionale, dici? Non lo so, adesso vedi, subito... Allora, professore, torniamo ai nostri occhi. Spesso per chi fa sport, anche Deborah mi insegna, e magari solitamente deve portare gli occhiali, cosa si toglie gli occhiali, si mette le lenti a contatto e l'occhio ci è caduto proprio in occasione di questa puntata su uno studio che racconta che insomma le lenti a contatto le usiamo ma le usiamo non proprio bene, direi che siamo un po' rimandati, bene ne male, ecco, e poi lì inizia, lei ride perché lì poi c'è quella superficie oculare di cui lei si occupa che viene in qualche modo danneggiata, offesa, provocata. È una provocazione. Perché la superficie dell'occhio è come un uomo su un filo che costantemente cerca il suo equilibrio e risponde agli stimoli che vengono dall'esterno adattandosi. Allora, se io sono stimolato troppo spesso o troppo a lungo o troppo forte, improvvisamente posso cadere dal filo. Questo è quello che succede quando la tollerabilità, quindi il sistema di allattamento della superficie oculare, non riesce a mantenersi e si innesca la malattia o il disturbo che tende alla cronicizzazione. E quello che succede è quel portatore di lente a contatto. Il portatore di lente a contatto è un tipo un po' particolare. Beh, è uno che è abituato a vivere bene, perché vuole vederci bene e ha trovato una soluzione che è una soluzione ottima, ma merita un pochino di rispetto. Se usiamo la lente a contatto al di fuori dei tempi o in ambienti molto stressanti, è chiaro che la superficie... Cosa intende ambienti molto stressanti? Vento, sole, aria condizionata, aria condizionata, polveri, terribile, eccetera. Cioè, dove viviamo abitualmente. Sì, esatto, esatto. Dove viviamo noi. Esatto. Per cui, diciamo, la superficie dell'occhio è sempre... in movimento, che cerca di compensare per questo sì, stress. Tagli straordinari. Esattamente. A un certo punto dipende molto dalle condizioni individuali, le signore con cambiamenti ormonali possono andare incontro più facilmente a questo problema. È per questo che c'è un periodo della vita in cui le lenti a contatto improvvisamente non si portano più volentieri e così via. Ma anche... sottolineano sempre delle signore con problemi ormonali. Sono anche un po' sadici in questa cosa. Sottolineano sempre... Non ne fa passare una. Perché in realtà la natura protegge le signore fino ai 50 anni. Cambiamo. Poi le dimentica. Ecco, poi pareggiamo i conti, voi risicate un po', quindi vi fate. Però è così. Quindi, se c'è questo iperstress e la superficie dell'occhio non riesce ad adattarsi, cominciano i problemi. Il problema più frequente è la incapacità da parte della ghiandola lacrimale di supplire con una nuova secrezione di lacrime. Sì. La presenza di una lente a contatto su un occhio aumenta il tasso di evaporazione dell'acqua quasi del doppio. Quindi la ghiandola lacrimale, quando ha una lente su, deve produrre quasi il doppio delle lacrime che produce normalmente. E questo da può diventare un problema. Ecco, da questo, allora, tre regole per chi... per ragioni di, per vederci meglio, per essere più comodo, per chi pratica sport, porta le lenti a contatto. Allora, siccome se io perdo acqua e le lacrime sono salate, va via l'acqua, restano i sali e i sali bruciano e creano l'infiammazione. Watson. Quindi, prima cosa, bagnare le lenti a contatto di tanto in tanto. Secondo, se è possibile, ridurre i tempi di utilizzazione. Tanto che, mi scusi, si chiama soluzione salina quella che va utilizzata. Beh, no, mi sbaglio. Soluzione salina, o comunque c'è qualcosa di più sofisticato, che sono queste lacrime artificiali. Sono rimasta indietro, va bene, però, è arrivata al termine. È già, però direi che è un 8.5-9. Ecco. Sì, 8.5. Dai. Ho esperienza con le lenti, soluzione salina. Però è chiaro, bisogna reidratare le lenti durante la giornata se c'è questo stress. Sì. La seconda cosa, ci sono due regole fondamentali. La prima, se l'occhio è rosso dà fastidio, le lenti non si mettono. La seconda, se l'occhio è rosso e dà fastidio, le lenti avete le lenti su, toglietele subito. Con queste due cose non può succedere niente al portatore delle lenti a contatto. Quindi niente rogne se si è... Purtroppo, quello che succede, non sempre è possibile togliersele quando uno ce l'ha, perché sta lavorando, perché sta viaggiando, perché sta facendo sport, è in barca a vela, c'è vento, è metà della bolina, non può togliersi le lenti a contatto. Ecco che viene fuori il genovese. Lei ha un gozzetto? No, non ce l'avevo da bambino. Un canottino. Avevamo il flying dutchman per andare in vela con i miei fratelli. Però, ma bello, eh? Però... Sì, era bello, molto bello. Lo credo. Poi ho fatto l'oculista e ho smesso. Vedi, vabbè. E quindi è importante capire e cercare di anticipare. Se io sento già il fastidio, vuol dire che è già partito una risposta infiammatoria. Il problema è che se l'occhio impara a dare una risposta infiammatoria, e poi è difficile farglielo disimparare. E per cui lentamente le lenti a contatto cominciano a diventare, invece che un piacere, un fastidio. Okay. Quindi è importante capire se dopo qualche ora di uso io comincio ad avere problemi. Mettiamoci una goccia prima e non aspettiamo di avere l'occhio che brucia. È un po' come succede facile, con la sete. Anticipiamo la sete piuttosto che avere questo stimolo. Esattamente, per non avere innescato il meccanismo. Lo metti tu? No, ecco, lo dico anche un po' sottovoce, ecco. No, però io ma le non uso importa, veramente poco. Io le uso tre volte a settimana per un paio d'ore, per cui non ho tutto questo fastidio. Ma l'importante è non innescare il meccanismo di cronicizzazione, perché poi rende sempre più difficile, perché diciamo, il sistema della superficie è reattivo, quindi impara a reagire. Allora, le regole le abbiamo date. Quante ore massime posso al massimo posso portare una lente a contatto di giorno? 8 ore, 7 ore, 6 ore? Invece una reazione individuale? Quindi, c'è molto dell'individuale, c'è molto dell'ambiente. Quindi, è chiaro, 24 ore no, per piacere. 12 ore possono andare bene in un ragazzo giovane che risponde molto bene, se non voglio insistere su questo, sì. Però, ci sono dei momenti della vita in cui la produzione lacrimale non riesce a tenere il passo. Quindi che orecchie ognuno, per intendere, intendo. Sì, ognuno conosce. Lo sa benissimo. Ecco, non fate così, ma se avete dei dubbi, 800 24 0024. Allora, Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna, e abbiamo il sole in piazza, e volte il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Ce l'aggiungiamo il vento a Genova, perché sì, poi quando ci sono quelle giornate, certamente, di vento, cioè, La lente a contatto è difficile. La lente a contatto è difficile. Allora, non vogliamo parlare naturalmente solo di dei portatori di lenti a contatto, ma vogliamo anche capire come state reagendo al passaggio, a questa leggero, no? Ci stiamo preparando all'autunno, arriverà, ve ne siete accorte perché anche la luce è cambiata. Professor Rolando, abbiamo parlato in diverse occasioni della luce solare che può aggredire i nostri occhi, bisogna proteggerci, è importante, quindi gli occhiali da sole, puoi comprare quelli di qualità con la certificazione, abbiamo raccontato e detto tutto questo, ma adesso che la luce cambia e il nostro occhio naturalmente si adatta, possono presentarsi dei piccoli problemi, dei fastidi che raccontano qualche cosa della salute dei nostri occhi? Vedevamo meglio prima quando la luce era bella forte e allora quasi non dovevamo portare gli occhiali pur essendo presbiti? Sì signora. Ecco. Perché la illuminazione naturalmente aumenta i contrasti e rende le cose più facili. Quindi quello che succede è che sempre più spesso, soprattutto negli anni in cui si comincia a diventare presbiti e quindi non si ha l'abitudine a mettere l'occhiale per leggere, eccetera, eccetera, si può avvertire un aumento dei sensi di fatica durante la lettura. E questo naturalmente crea una minore resa sul lavoro, la voglia di piantare tutto lì e andare a farsi un giro e così via, perché aumenta la fatica. Come pure, ne parlavamo prima, se queste lacrime non sono molto stabili, il nostro occhio cerca di vedere meglio e mette a fuoco con dei muscoli che sono all'interno dell'occhio e cerca di focalizzare tutto il giorno. E questo produce nel corso della giornata una fatica visiva che ci distoglie poi dall'attenzione che dovremmo prestare durante l'attività. Quindi sicuramente il cambiamento di illuminazione generale ha un effetto, diciamo, negativo, se tra possiamo, virgolette, molto, sì, molto poco negativo, sulla nostra capacità di visione intermedia e da vicino, perché le cose diventano naturalmente con minore contrasto, quindi facciamo più fatica. Questa è una cosa facilmente, fortunatamente, facilmente risolvibile. Per chi non si offende troppo, mettersi un paio d'occhiali che sono così piacevoli. Tutti i colori, anche io li cambio tutte le montature. No, adesso ultimamente porto sempre la stessa, tondine nera. Chissà cosa significa? Non lo so, adesso vado a ripescare perché li perdo io gli occhiali, essendo presbite, li metto solo per lavorare al computer. No, guarda, per un periodo ne è venuto anche con un paio, erano un po' rottini. Sì, erano, però insomma, quelli d'appoggio. Li semino. Certo. Allora, abbiamo un signore di Arezzo che ci scrive e ci dice che ha 57 anni. Carino, perché no, ha un po' pareggiato il conto con le signore. Copiosa lacrimazione di sera al PC. È Beppe che ci chiama, ci scrive da Arezzo. Allora, della serie anche gli uomini lacrimano. Certo. C'è anche Roberto da Bari, pronto. Dai, Roberto, Roberto, anche lui. Sì. Ale, buongiorno. Buongiorno. Bada. Volevo chiedere al dottore se ci sono controindicazioni e rischi per l'uso delle lenti notturne, quelle che correggono la miopia, le lenti ortocheratologiche, credo. Sì. Sì. L'ortocheratologia. Sì. Facciamo prima Roberto, sì, dai Roberto e poi andiamo da Arezzo, dai, è peccato che è lì. L'ortocheratologia è un sistema per modificare la curvatura della cornea, comprimendo la cornea stessa durante la notte. Una specie di apparecchio, dai. È una specie di apparecchio che si mette. Ora, è sicuramente, tra virgolette, una violenza che si fa alla natura e alla superficie corneale. In realtà i dati che sono disponibili non mostrano particolari danni che si possano creare con questo sistema. E il sistema funziona in modo molto diverso, dipende da persona a persona, da tipo di applicazione, eccetera, e è una correzione che poi risulta essere transitoria. Quindi può essere, è difficile pensare che uno che non può portare le lenti a contatto durante il giorno riesca a tollerare senza segni una lente a contatto che si porta durante la notte e che in più schiaccia sulla cornea. Però diciamo, la pratica è ormai diciamo, abbastanza consolidata e i risultati possono essere anche buoni se uno si accontenta delle cose che si ottengono, perché sì, probabilmente non è possibile. È delegata all'applicazione di questa lentina notturna, all'applicazione di una lentina notturna che schiaccia sulla superficie oculare. Ad un ragazzino lei la prescriverebbe? No. E quali altre persone? Bisogna che ci sia una persona dovrebbero che evitarle? O persone che hanno problematica alla superficie dell'occhio in generale, sì, persone che hanno le congiuntiviti, eccetera, eccetera, o altre malattie dell'occhio. La compressione in realtà poi lentamente tende a perdere la sua efficacia nel tempo, però può risolvere dei problemi. È chiaro che se io ho problematica a portare la lente a contatto, l'effetto negativo della lente a contatto ce lo posso avere durante il giorno per via dell'evaporazione, ma anche durante notte, la notte, per la presenza, se la mia lubrificazione non è perfetta, e così via. Quindi è un buon espediente, sicuramente non si applica a tutti e per conto mio va utilizzato da una persona molto cosciente di quello che fa. La prescrive l'oculista. E deve essere prescritta dall'oculista e deve essere esercitata da un ottico applicatore di lente a contatto con esperienza specifica sulla cosa, perché deve essere fatta bene e non deve essere tentativo. Andiamo al nostro amico di Arezzo che alla sera lacrima davanti al PC. Aia. Lacrima perché e quindi stanca. Si stanca e quindi non solo le donne lacrimano, no, ma anche gli uomini, molto probabilmente per il problema che voi sottolineate spesso della mancanza di ammiccamento che abbiamo davanti al computer durante la visione al terminale, proprio perché in realtà è una falsa immagine ferma, ma l'immagine si muove, il nostro occhio percepisce il movimento e presta molta attenzione, quindi c'è una riduzione dell'ammiccamento e, ammesso che lui sia corretto in modo appropriato, se c'è un difetto. Ah, perché questo potrebbe peggiorare la situazione? Non perché peggiora la situazione, nel senso che lui si stanca di più e, certo, e quindi la fatica le scatena la lacrimazione, ma la lacrimazione non è altro che una risposta a uno stato di stress della superficie dell'occhio che si asciuga, certo, e cerca di compensare. E se questa risposta è un po' troppo vivace, diciamo, avviene, sì, questa superlacrimazione. Ora, ci può anche essere il fatto che il suo sistema di scarico delle lacrime, le lacrime che escono e vanno all'interno del naso, non sia perfettamente funzionante, quindi quando io ho un aumento della mia lacrimazione non riesco a scaricare completamente. È come un lavandino otturato. Ahimè, sì. Ecco, e allora, consigli per il nostro amico di Arezzo, ma che servono a tutti noi, perché molti di noi passano tante ore davanti al PC, che poi davanti a questo PC non ci possiamo stare, sentendo i medici, perché l'oculista dice ammiccate, il fisiatro, chi si occupa di postura, dice mi raccomando, alzatevi, sgranchitevi le gambe, insomma, ogni 20 minuti, esatto, poi ammicchi, eccetera, un lavoro anche stare davanti, un altro lavoro. Certo. Allora, alcuni consigli: ammiccare un po', sì, come ci sgranchiamo le gambe, bisogna ricordarsi stringere, di ogni tanto di togliere lo sguardo, sì, ammiccare. Se cominciamo a sentire bruciare, forse avere lì a portata di mano una lacrima artificiale mentre si lavora, se si deve fare un lavoro che si deve assolutamente finire, eccetera, eccetera. Meglio quelle monouso, così non sono, le pasticciamo con le mani che sì, sono sporche, perché la tastiera tema vale quanto un WC. Perché così non si usano conservanti e cose. E quindi tenere una posizione corretta, non appiccicarsi al computer e nemmeno stare molto storti se è possibile, perché così diciamo anche la visione binoculare lavora in modo corretto e poi ogni tanto alzare gli occhi e guardare l'infinito, che sempre sì, bene fa, perché sì, dà una prospettiva diversa. Però rilasciamo anche i muscoli sensi all'interno dell'occhio, che focalizzano ai 30 centimetri, 40 centimetri le cose, e quindi sono in super lavoro durante infatti il nostro... io mi giro e guardo Deborah che è lontano, lei ha una cosa, ci guardiamo e subito si idrata immediatamente. Luci, però volevo prima di salutarla mi dice quella cosa che mi piace, che voglio dirla anche agli ascoltatori, di quell'impacchetto con l'acqua calda. Allora, la sera mi piace perché io stasera lo faccio anch'io, e vi metto anche le foto. A me dà fastidio l'ombretto che metto, quindi è una stupidaggine estremamente efficace, è l'impacco caldo. Sul bordo della palpebra noi abbiamo delle ghiandole che sono ghiandole che producono un grasso che si dispone sulla superficie dell'occhio, sulla superficie delle lacrime, e ne evita l'evaporazione. Non solo, ma questo grasso rende splendente l'occhio, bello brillante. Beh, e quindi anche un vantaggio collaterale. Sì. Però l'impacco caldo non fa altro che pulire intanto la superficie dell'occhio, eccetera, ma liberare questi grassi che sono secreti da delle ghiandole che si chiamano ghiandole di Meibomio, che sono sul bordo palpebrale, e questo grasso viene disperso sulla superficie dell'occhio e rinforza la lacrima e migliora la qualità della visione. Ecco, quindi l'impacco caldo, che deve essere acqua calda, non tiepida, quindi deve superare i 35 gradi. Sì. Non fatevi l'occhio bollito. Ecco. Che l'occhio alla coque no. L'occhio lesso no, da pesce lesso no, possibilmente. Però 35, cioè deve essere, si mette il dito, di acqua, senz'altro. Acqua del bronzino, si dice a Gemma, del rubinetto. Del bronzino. Ma tu, costa niente. Certamente. Vedi, è qua, siamo a Genova e siamo a Cuore Denari, un intreccio. Poi, vaschetta con 4 pezzetti di cotone. 2 pezzetti di cotone sono sugli occhi chiusi. Sì. Quando scende il calore, si pucciano nell'acqua calda e si prendono gli altri. Se riuscite a farlo per 5 minuti, meglio alla sera, dopo la cena. Ma quando il cotone si strizza un po'? Sì, per non allagarsi la faccia, certo, e bagnarlo per tutto. Perché sennò bagna un po' la camicia. Però di quello che serve è il caldo umido applicato sulla superficie delle palpebre chiuse. L'ideale sarebbe riuscire a fare per 5 minuti. Perché qualcheduno ha studiato e ha messo un termometro all'interno di queste ghiandoline che si chiamano ghiandole Meibomio, e ha visto che per avere una fusione dei grassi contenuti da queste ghiandole ci vogliono 5 minuti. Ma quante ne abbiamo imparate oggi. E poi con gli occhi brillanti alle guardate e conquistate. Esatto. Certamente. Tutto parte da un po' di cotone caldo, è semplice. Grazie professore, è stato veramente bello averlo qua in studio. Ecco. Buona giornata. E buona giornata. Con occhi brillanti mi vado a guardare i mercati e poi parleremo, attenzione, amica. Esatto, del vostro portafoglio, e insomma, se state accarezzando l'idea di fare un micro investimento così nella vostra passione di tutta la vita, che magari può essere l'acquisto di una piccola imbarcazione, oggi vi spiegheremo come farlo anche magari a costi contenuti. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Vabbè, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Anche la questa sappiamo. La sappiamo, come quelle di Mia Martini e tutte quelle che abbiamo sentito stamattina. Siamo ancora in diretta dal Salone Nautico di Genova e non potevamo non parlare di voi appassionati di imbarcazioni. Lo vogliamo intanto fare senza offendere nessuno, perché quando si parla di questi argomenti cominciano subito a dire: ma con la crisi che c'è, ma chi volete che si possa permettere di comprarsi una barca? Guardate che in realtà questa passione è molto diffusa fra gli italiani, con tutta la costa che abbiamo. Mi pare necessario anche parlare con rispetto di queste persone che magari rinunciano ad altro, ad altri hobby che possono essere altrettanti costosi per potersi permettere questo piccolo lusso, se vogliamo. Allora oggi, pur considerando che chi ce la fa riteniamo che sia un'obiezione pertinente, in realtà daremo a tutti gli altri appassionati di mare, di imbarcazioni, le indicazioni principali nel caso voleste fare questo investimento. Peraltro mi è stato portato dagli ospiti che vi presento tra un attimo proprio l'ultimo numero del mensile internazionale di navigazione nautica, dove c'è un articolo veramente completo su voglia di vedere, voglia di comprare, con tutte le istruzioni per l'uso, proprio per l'acquisto della barchetta dei nostri sogni, dai documenti necessari alla fiscalità che va conosciuta naturalmente, anche per così essere in regola con tutte le autorità rispetto a questo acquisto, i documenti di cui è necessario dotarsi. Insomma, faremo un punto della situazione con Roberto Neglia, responsabile relazioni istituzionali di Allora, sono un po' in difficoltà. Ucina o Ucina? Ucina. Ucina. Ecco, Confindustria Nautica di settore, facile. Esatto, perché qua ogni tanto in realtà le devo dire che ho sentito l'accento un po' e stamattina sono andata in confusione, spostato da un'altra parte. E poi un collega, Fabio Petrone, esperto di questo mondo, direttore dell'agenzia Pressmare. Buongiorno. Tutto correttamente? Correttissimo. Benvenuti naturalmente anche a voi. Allora, se qualcuno volesse farci delle domande sull'argomento, il canale è sempre lo stesso. Esatto. 800240024. Lo vuoi cantare? Mi piacerebbe. Scegliti la colonna sonora quando perché sei pronta, la mia mi dici. S si sì. confonde con la F. Dove siamo? Allo stand S come sole 35. Dove no, potevamo essere. Cosa, c'è? Cosa c'è? Il sole, a Genova. Sole. Al sole 24 certo, ore. Vabbè, mamma l'abbiamo mia. Fatta apposta. Chiudiamo questa parentesi. Allora, Roberto Negli, al settore della piccola nautica, parliamo di questo mondo, quindi quello che è a portata di portafoglio magari degli nostri ascoltatori. A giudizio di molti è stato quello che sta dando la svolta al settore dopo qualche anno di difficoltà. È davvero così? Allora, il settore sta ripartendo tutto e questa è una bella notizia per tutti gli operatori. Sta partendo molto bene anche per le piccole barche. Io questa mattina ho fatto il casalingo, anziché andare a comprare i pomodori e le zucchine, sono andato a fare un giro per il salone, perché lavorandoci ancora non l'avevo fatto. Sono andato a fare un giro del salone e ho detto: vediamo cosa mi potrei comprare oggi. Ho scoperto che la barca esposta, che costa meno che c'è qui oggi, costa 600 euro. Dov'è? Ora guarda, che ce la portiamo a casa, facciamo una socia. È un piccolo gommoncino, ma con altri pochi 100 euro ci si può mettere un motore elettrico, addirittura un motorino fuori bordo elettrico, e si può andare a fare il bagno con 1000 euro. Un abbonamento annuale in palestra costa quanto questa piccola imbarcazione? Costa di più. Quindi tanto per dare allora, un buon rapporto, diciamo così, ecco. Hanno parlato tutti dell'ammiraglia di 50 metri che costa 27 milioni. A me piace solo dire che ha fatto lavorare 700 operai per 3 anni. Bravo. Invece ci sono anche le barchine. Poi sono andato a vedere, ma se io ci volessi passare una notte in barca, e ho scoperto che la più piccola barca a motore, con un bel pozzetto per la pesca e i bagni, e con una micro cabinetta, con un letto matrimoniale dove una brava coppia dorme una notte, il cuscinotto e un bagnettino, costa 18.000 euro. È una macchina media, è una Fiat di medie dimensioni. Cioè, chi si compra la seconda casetta in montagna ne spende molti di più. Molti di più, ecco. E quindi diciamo che è una cosa che si può fare e che in realtà forse costa meno andare a fare grazie la vacanza per questo reportage che ha fatto al posto nostro. Ma pensa come sarà attento quando va a fare la spesa. Ma infatti, sì, l'incubo del negoziante. Si vede che sono un casalingo. Fabio Petrone, allora il settore, ce l'ha già spiegato Roberto Negli, è molto articolato, eterogeneo, non è solamente motoscafi, yacht di grandi dimensioni. Allora, cosa contempliamo esattamente nella categoria della piccola nautica? Ci sono dei requisiti tecnici legati alla dimensione, diciamo, al tipo di imbarcazione? Al discorso che ha fatto all'inizio Roberto, volevo dare un dato ulteriore, che è quello della crescita dei motori, della vendita dei motori fuori bordo nell'ultimo anno, che ha fatto registrare un più 7%, che non è un numerone gigantesco, ma comunque è un segnale importante. Cosa di ripresa. Vuol dire per il piccolo vuol dire che sono tutte le navigante. Barche, sono la maggior parte delle barche che navigano, ovvero i natanti, le barche al di sotto dei 10 metri di lunghezza, e che molto spesso vengono portate da diportisti che non hanno la patente, perché sono motorizzate con fuoribordo al di sotto dei 40 cavalli. E quindi questo è un segnale importante, perché ci dice che la nautica ha nuovi adepti, ha tanta gente che si sta riaffacciando a questo settore dopo delle annate, diciamo, disastrose che hanno in un certo senso bloccato il ciclo normale di crescita di questo mercato, esatto, e che ha messo in crisi tutto il settore, certo, diciamo, tutta la parte produttiva. Quindi mi piaceva sottolineare questo dato. Poi a questo vanno aggiunti i numeri che esprime diciamo nemmeno la nautica minore, perché noi comunque consideriamo sempre le barche a vela, le barche a motore, i gommoni eccetera, e sono i kayak, esatto, diciamo, le tavole a vela, qui diciamo che è molto più difficile dare dei numeri esatti, perché non c'è nulla di immatricolato, non c'è nulla di registrato, però insomma lo vediamo tutti quanti sulle spiagge dell'affluenza dell'uso che viene fatto di questi mezzi ricreativi. Quindi c'è tanto, tra virgolette, sommerso, che comunque vivacizza questo mercato e dà a Roberto Negli il suo contributo. C'è una rilevazione dell'Osservatorio Nautico Nazionale che ha fotografato un po' il mondo degli appassionati. Grosso modo in Italia 1,5 milioni di appassionati per la nautica, quindi una buona platea, e se facciamo 100 tutto quello che galleggia, considerate che quello che galleggia sopra i 10 oltre 10. Il resto sono piccole barche, le barche per la famiglia, certo, le barche per tutti, quindi c'è tanta passione. Certo, esatto. Un altro parallelo che mi veniva da fare adesso mentre sentivo i vostri ragionamenti, che per esempio è la passione dello sci, no? Un anno, farti l'abbonamento, lo schilitto, tutta la dotazione, affittarti la casa, eccetera, siamo più o meno su quei costi là, da raggiungere annualmente. Per cui ecco che ridimensioniamo un po' tutta l'idea con che orrore, molti hanno. Con orrore ho perché scoperto, lei è un lupo di mare. Io assolutamente sono un appassionato velista, ho scoperto che la cabina sulla spiaggia vicino a dove io tengo la barca costa più del mio ormeggio per tutto l'anno. Ecco. Quindi diciamole queste cose. Che uomo di cuore e denari che abbiamo portato. Oggi qua, no? Allora, quindi se dovessimo fare una sintesi un po' di tutto ciò, avete così in mente un calcolo di quanto sia disposto a spendere un italiano appassionato di questo mondo per dotarsi di un'imbarcazione? La spesa media esiste? Esiste un osservatorio che ci racconti anche questo? È impossibile farlo, secondo no? me è impossibile farlo, Fabio perché, Petrone, perché sì, stiamo parlando di oggetti talmente diversi fra di loro che appunto, come ha detto Roberto prima, possono costare milioni di euro o poche centinaia di euro, che fare una stima dipende dal portafoglio dell'acquirente. E poi magari uno fa un acquisto anche minimo, poi naturalmente un acquisto porta l'altro, perché ti vuoi dotare anche di tutta la strumentazione necessaria per utilizzare al meglio. Secondo me dipende anche molto dalla passione, perché ci sono appunto i famosi neofiti dei quali parlavamo prima, che magari per iniziare si dotano di barchine piccole con motori sotto i 40 cavalli, come vi ho detto prima. Poi però evidentemente il ragionamento che io faccio è che una volta che una persona è montata in barca e ha vissuto il mare dalla barca, è difficile che torni indietro, che vada a sciare e faccia dell'altro. No, nel senso che allora, tornare indietro torna. Beh, speriamo. Speriamo, però da questa però, se non ci sono panne torni indietro. Allora, noi adesso dobbiamo andare in auto adesso, perché ci sono i suggerimenti e la viabilità. Poi ci sono due ascoltatori, c'è chi lamenta che nonostante tutto il chilometraggio di coste che abbiamo, in realtà ormeggiare le imbarcazioni in molte aree è molto difficile, come ci diceva il nostro taxista di stamattina. Esattamente, infatti, perché anche noi abbiamo fatto le nostre rilevazioni, i nostri sondaggi. Poi sentiremo anche cosa ci racconta Antonio da Verona. A tra pochissimo. Cuore e denari. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare. Eccoci ritrovate, Cuore Denaro in trasferta, in diretta dal Salone Nautico di Genova. Però l'anno prossimo dovremo chiedere di trasferire il nostro stand su un'imbarcazione, dobbiamo fare il salto di qualità. Ecco qua, sono tutti d'accordo, lo dico ad Elena Ligios del marketing che fra salutiamo. Un po' mi guarderà con assoluta... No, Neglia, lei ci deve aiutare, Confindustria Nautica può darci una mare, facciamo una cosa bella. Allora, stiamo parlando un po' della passione degli italiani per l'imbarcazione, qual è l'imbarcazione, come dire, il Natale. Anzi, definiamolo così, con il gergo appropriato, a portata di portafoglio dell'italiano, e poi tutti i problemi annessi e connessi. C'è nel capitolo della fiscalità il tema redditometro, che ha fatto veramente venire gli incubi ad un sacco di italiani negli anni passati. Se ce la faccio ci arrivo, sentirei però gli ascoltatori che si sono candidati ad intervenire. Beniamino da Latina, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, velocissimo, grazie. E niente, voglio parlare, voi parlate di imbarcazioni, di salone nautico, però vorrei ricordare che uno che si fa una barca, purtroppo poi di metterla al mare è un problema, perché noi qui a Foce Verde, provincia di Latina, abbiamo 25 km di spiagge, di mare, però non c'è uno scivolo. Io mi compro una barca e per buttarla al mare devo andare a un porto. Non sa come fare, certo, deve fare il giro delle sette chiese. Non è questione di comprare una barca e poi dove metterla, come farla andare a mare. Certo. Quanto indotto potrebbe movimentare questo settore se si sviluppasse adeguatamente? Quindi quanto altro come dire, denaro potrebbe generare? Roberto Neglia, lei annuiva, peraltro, quindi zona che conosce questo problema zona sollevato. Che conosco, l'ascoltatore ha perfettamente ragione, però gli do un'informazione in diretta. La nostra presidente Carla De Maria in questo momento è chiuso in un ufficio col ministro del turismo Dario Franceschini, proprio qui al Salone Nautico, e il primo tema che gli ha detto il ministro: dobbiamo favorire il turismo nautico per tutti, per le famiglie, servono gli scivoli e i ricoveri a secchi per Ottimo. Le barche. Quindi è stato il primo punto, il ministro si è preso un impegno, ora in sala stampa speriamo che dica qualcosa e faccia soprattutto che qualcosa che non riguarda solo la costa di Latina, ovviamente immagino che riguarderà una marea però di altre aree. È un problema vero. Per quanto riguarda i numeri, rapidissimo, il turismo nautico crea un indotto di un miliardo miliardo e mezzo di euro, ecco, sul mare. Fate conto che solo, anche poi ci sono le acque interne, solo sui grandi laghi al nord Italia smuove un centinaio di milioni di euro. Sono cifre importanti che dovremmo sfruttare e valorizzare. No, abbiamo fatto bene anche a ricordare queste cifre per chi magari anche immagina la sua professione del futuro. È un settore che impiega professionalità molto interessanti alle quali magari non si pensa nell'immediato, visto che oggi no, il turismo nautico, il turismo nautico è un turismo di gran qualità, cioè noi siamo abitati, ad esempio io abito in una metropoli a Roma dove abbiamo tanto turismo dei pellegrini, che per carità ha una sua dignità, ma non è comparabile al turismo che porta un'imbarcazione, una grande imbarcazione, un super yacht, ai quali ultimamente negli ultimi anni è stata data la caccia, tanto che c'è stato, passatemi il termine, una diaspora delle grandi barche verso l'estero. E questo ha portato un documento enorme alla certo. nostra economia, all'economia reale, perché ognuna di queste barche, per ogni giorno che sosta nei nostri marina, lungo le nostre coste, comunque porta a tutte quelle aziende che sono l'indotto del turismo nautico, la ristorazione, chi vende i fiori, eccetera, eccetera, porta tanto di quel denaro che... Certo. Altrimenti va disperso. Quindi, ecco, quando parliamo di nautica non parliamo solamente del mega yacht comprato dall'oligarca russo, dal nabab che arriva da Dubai e quant'altro. Me, c'è tutto un altro mondo. Non bisogna criminalizzare, valutato. Ognuno compra quello che può comprare, ma l'importante è che rimanga qui, certo. perché porta benessere. Esattamente. Roberto Negli, allora, la fiscalità, quali natanti generano i problemi più complicati dal punto di vista fiscale? Ma allora diciamo una cosa, il problema era quella che diceva Fabio Petrone, la caccia alle streghe. Negli anni passati avere una barca voleva dire automaticamente avere la guardia di finanza che esatto, si suonava che il campanello, lo dico in maniera... Fammi vedere la fattura esatto. con cui l'hai oggi comprato. Da qualche anno, e questo è anche un frutto del lavoro dell'associazione, è completamente cambiato il redditometro. Oggi forse gli italiani ancora non lo sanno, ma il redditometro ti chiede quanto spendi, se spendi investiti in viaggio o in barca, l'importante è il saldo finale, esatto. mentre prima il valore della barca veniva moltiplicato per 8, e quindi qualunque commercialista ti diceva compra tutto ma non la barca. E oggi ricordiamoci una cosa, grazie all'attività che abbiamo svolta non c'è più una tassa sulle barche, e questo è servito a far tornare quelli a cui accennavamo prima che sono scappati. Il natante, la barca per la famiglia, quello fino a 10 metri è privo di registrazione, fino a 40 cavalli è privo di patente, è privo di tassazione. Si deve assicurare qualunque tipo di natante? Si deve assicurare per la responsabilità civile qualunque tipo di natante con motore da potenza di 2 cavalli in poi, e questo è assolutamente giusto. Il messaggio che possiamo dare qui dal salone, ok, siamo l'Italia è il paese che ha più libertà per i natanti, utilizziamola bene, e magari anche se non è obbligatorio ci facciamo un bel corso di mare e di sicurezza prima di uscire. Questo può essere un bel messaggio. Esattamente, corso di sicurezza. Invece la patente nautica quando è necessaria, Fabio Petrone? La patente nautica è necessaria quando si ha appunto un motore al di sopra dei 30 kW pari a 40 cavalli, che sia... Adesso non ricordo esattamente le cilindrate, mi sembra per i 4 tempi 1000 centimetri cubi, eccetera, eccetera. E, diciamo che comunque, a prescindere dalla patente, secondo me è una questione di responsabilità. Bisogna andare in mare consapevoli di quello che si fa. Non si fa una passeggiata, mai. Né in mare né in montagna. Anche chi non ha l'obbligo della patente non può andare a cuor leggero e deve comunque sapere esattamente le regole, che cosa sta facendo, come si va in strada. Allora, due interventi flash, vediamo se ce la faccio. Vincenzo da Roma, rapidissimo, grazie. Buongiorno. Allora, io avevo un gommone di 8 metri con un motore da 250 cavalli. Pagavo 5.300 euro l'anno per tenerlo in mare e ricoverato d'inverno. Sì. E questo zona Terracina. Ritorniamo sempre a domandarmi dove l'avevo comprato, quanto l'avevo pagato, chi ero, chi non ero. Vincenzo, grazie. Roberto Negli, cosa ci dice questo caso? Appartiene al passato, quindi sì, esatto, è vero, ma appartiene al passato e non dobbiamo aggiungere altro. Antonio da Bari ci farebbe farebbe aprire un capitolo enorme. Antonio, rapidissimo, grazie. Ora faccio io la sua domanda. Per i motori elettrici cosa c'è di nuovo? Qualche tecnologia nuova qua Negli da raccontare qualche novità al salone nautico? Assolutamente sì, allora anche qua siamo tarati perfettamente sul salone, ci sono i piccoli motori elettrici fuori bordo per i gommoni, però vorrei dire che l'ammiraglia di 50 metri è il motore elettrico, è un vanto dell'industria italiana ed è la prima al mondo di quelle dimensioni che ha un motore elettrico. Avete capito dove va la tecnologia in questo mondo, ragazzi? Ma soprattutto dove va il salone e l'industria italiana, che è un vanto del mondo, fatemelo dire in chiusura. Allora, l'anno prossimo noi oggi abbiamo preso la lettera alla promessa, vogliamo andare sull'Amerigo Vespucci a fare la diretta di Cuore Denari. Grazie a Roberto Neglia, a Fabio Petrone, noi torniamo a casa a Milano, grazie a tutto lo staff tecnico che ci ha seguito in diretta, domani.